voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. 16ª puntata. Paternità. Ogni giorno Piero Tommaseo Ponzetta guardava i figli con amore paterno. Erano due ragazzi belli, più che belli, antichi. Il loro tipo di bellezza si vedeva molto raramente. Non alti, di quella statura degli Opliti, degli Apollo Etruschi, molto diversi uno dall'altro. Lento e leonino il più grande, pieno di scatti e con occhi cerulei di smalto lucido sotto le lunghe ciglia nere, il secondo. Piero li guardava con amore e sempre tentava approcci, una carezza, un bacio, un abbraccio, come se fossero stati bambini. Ma né i suoi sguardi né i suoi modi affettuosi erano graditi ai figli. In realtà l'amore paterno e gli sguardi di Piero erano strani per chi li vedeva e per l'istinto dei figli. Erano sguardi di donna non più giovane e innamorata, richiedenti, uno sguardo, una carezza, un bacio, irremissivi, al rifiuto. Ed erano, senza alcun dubbio, sguardi come indeboliti dal troppo amore, che cozzavano con quelli forti ed egoisti dei figli e contro i muscoli elastici e potenti. Erano, in una parola, gli sguardi della passione, sempre illusi e sempre delusi. D'estate Piero abitava insieme a una grande famiglia, una turba di fratelli, cognati e nipoti, in una villa di campagna dove i giochi dei ragazzi si intrecciavano al continuo apparire dei grandi, disseminati qua e là tra il giardino della villa e l'aia, dove si udivano nitrire i cavalli, abbaiare minuscoli cani, cantare galli e galline, gli uni per gli spennamenti amorosi, le altre per le uova fatte. Dietro, nell'orto sotto la luna, le chiocciole salivano tra l'insalata, i conigli ruminavano con qualche saltello in certi gabbiotti pencolanti e muschiosi a cui avrebbe dovuto accudire Piero, come saltuario addetto ad ortaggi e pollame. In realtà Piero girava come una trottola dall'orto all'aia 2, 3, 4 volte a passo veloce, guardava tutto avvicinando gli occhiali alle piante e agli animali. Poi tornava nell'aia o nella villa e scompariva nel verde. Spesso lo si incontrava su una panchina, seminascosto, con un panino di mortadella. Una sera le stelle brillavano alte sopra i pioppi dell'aia. C'era una cena, una specie di festa, di quelle che Piero aborriva, essendo selvatico, solitario come si è visto e geloso. Molte erano le luci accese nelle varie case, e Piero avrebbe voluto spegnerle tutte per non consumare luce, così come non appariva in quei pranzi e feste per non soffrire a causa delle spese di cibo. Non si vedeva, ma si udiva nell'aia la sua voce annunciare «Il contatore gira!». La festa era in onore di un pianoforte, addirittura uno Steinway, prestato alla moglie di Piero da alcuni amici. Si suonava, si ballava, tutta la grande famiglia e molti conoscenti partecipavano alla novità e Marcella, la moglie di Piero, stava al pianoforte. Fasci di luce si allungavano nel cortile e nell'aia ad ogni porta che si apriva. Cori e musiche si infilavano tra le ortiche nell'orto, i conigli non ancora addormentati tiravano le orecchie, le lumache rosicchiavano l'insalata, le galline invece dormivano. Piero, come al solito, se ne stava in disparte, nel buio di un porticato, con il suo piccolo e indipendente cartoccetto di mortadella, rimuginando sulla sua timidezza, indeciso sul da farsi, come sempre quando c'era gente. Recitava la parte del bisbetico, in modo eccelso, e sempre inventando nuove apparizioni e sparizioni, come un attore goldoniano. Sapeva di piacere per questo, ma attendeva con infinita golosità di entrare anche lui nelle luci e nei suoni della casa al momento della torta. Lentamente e inesorabilmente se la sarebbe mangiata tutta a minuscole e inavvertibili fettine. Se non che il momento della torta era vicino, Piero lo calcolava al secondo, stando al buio. Ecco Lodovico, il più giovane dei figli, quello degli occhi di smalto, il più violento, precipitarsi fuori da quelle luci, stanare il padre raggomitolato sulla panchina e dire brusco come una molla: «Dammi la chiave della macchina!» «Perché? Perché?» Piero si agitò immediatamente. «Sono stufo, vado a ballare!» fu tutto quanto disse il figlio, che teneva stretta per mano una ragazzina bionda. Nell'ombra Piero fu colpito dalla bellezza del figlio, dalla muscolatura fremente e ripreso dalla passione paterna. «Dove?» pronunciò, con voce alterata ma niente affatto autoritaria, con voce alta ma debole. Il figlio vinceva e sapeva di vincere. «A Lido, a Venezia!» disse sbrigativo. «Dai, dammi la chiave!» La passione e la recita, o la recita della passione, agitò Piero. «A Lido, a quest'ora! Neanche per idea!» Il figlio Lodovico sbuffava. «Dammi le chiavi!» comandò. Recitava anche lui, cominciava il duetto. «Adesso, di notte, neanche per idea, niente!» «La prendo lo stesso!» disse Lodovico e corse verso la vecchia automobile. Era uscita gente, i fratelli, i cognati, gli amici. Piero corse anche lui verso la macchina. Ci fu un tafferuglio, una specie di lotta, dove Piero tentò abbracci e baci, prendendo spintoni e pugni. «Lodovichetto!» diceva. «Sei matto a quest'ora!» il figlio disse. «Allora vado in moto!» e si avviò verso la rimessa delle moto. Uscì rombando verso il padre, che intendeva opporsi, e fece il gesto di investirlo se non lasciava via libera. La ragazza salì sul sellino. «Lodovichetto, ma tu sei matto, Lodovichetto!» si lagnava Piero. «A quest'ora a Venezia, fai un piacere al papà!» «Corri via!» disse Lodovico. Ci fu un carosello, seguito da Piero e dagli amici. Quasi tutti, apposta, tenevano per Lodovico, insistevano perché Piero cedesse l'automobile. Era estate, erano giovani, c'erano altri ragazzi, tutti d'accordo per andare a ballare al Lido. «Chiudo il portone!» gridò Piero disperato e corse verso il portone dell'aia. Con un rombo fu preceduto da Lodovico, che però frenò. «Via, vado!» disse al padre. «A quest'ora sta attento!» Il primo cedimento era avvenuto. Arrivò subito il secondo. «Hai soldi? Vuoi soldi?» e cavò di tasca il portafoglio borsellino che gli teneva apposta per la campagna. Era slabbrato e sfilacciato da pezzente. Si girò come per nascondersi, per sfilare il denaro dal portafoglio in segreto. 2000, disse, e baciò il denaro e poi lo offrì al figlio. «Caro», aggiunse, e protese le grosse labbra a un bacio. «Non voglio niente», disse il figlio. «Tieniti tutto, anche la macchina». 5000, 10000, gridavano i presenti, incitando Piero a sborsare. 5000 Lodovico, 5000 Dalvise», propose uno, e Alvise, l'altro figlio, si fece sotto, minaccioso, in silenzio. 5000, figuriamoci», borbottò Piero. Lodovico fece uno scatto in avanti con la moto e investì il padre, che fece un balzo. «Non voglio niente», disse, e accelerava. 5000, disse Piero, e rovistò nel portafoglio semichiuso, gettando occhiate e sospetto ai presenti. «Se mi dai un bacio», e avvicinò le labbra, ma con prudenza, a Lodovico. «Ti do un pugno, via!» disse Lodovico. «Caro!» sospirò Piero e allargò il volto dal grosso naso in un sorriso. «Caro Lodovichetto!» «Allora Alvise, dai un bacio ad Alvise!» propose qualcuno. Alvise fece un salto indietro, ma il padre lo raggiunse con le labbra protese. «Alvisino!» disse Piero tutto sorridente. «Caro!» ma si trovò il pugno di Alvise a un centimetro dalla faccia. Lodovico rombava. «Addio, addio!» disse, e con un boato fece uno scatto in avanti. «Ferma, ferma!» gridò Piero, già pieno di allarme. 2000! Niente! Allora ti do la macchina, caro!» Un più grave cedimento, il terzo, era avvenuto. «Niente!» disse ancora Lodovico, tutto scattante, divertito e muscolare. La luna lo illuminava come la groppa di un cavallo da corsa. Era un po' sudato nella sua maglia di spugna bianca. «Caro», disse Piero, «è uguale a me, identico». Si protese ancora per ricevere o carpire baci da uno o dall'altro dei figli, o magari da tutti e due. prese 2 o 3 pugnotti, era nel pieno della felicità. Una roulotte con amici e ragazzi partì, i finestrini illuminati come una barca da un porto, i cani abbaiavano. «Basta, via!» disse Lodovico con un ultimo potentissimo boato e partì, scomparve nella sua maglia bianca con la ragazza aggrappata. Rimase Alvise, che entrò in una delle porte illuminate, raccolse avanzi per le galline e i cani e li gettò dentro 2 pentole. Aveva preso lui le redini dell'orto, dei polli e dei conigli. Piero colse l'occasione. Alvise aveva tutte e 2 le mani occupate dalle pentole, lo abbracciò e lo baciò con le labbra a canna. «Via!» disse Alvise e minacciò di gettargli addosso le pentole. «Via!» «Caro!» disse Piero ridendo di felicità. «Cari!» Patria. Un giorno di primo inverno del 1942, con una spruzzatina di neve seguita da un cielo freddo a strisce bianche e azzurre, un ragazzo uscì di casa per andare a scuola. Allora le città sembravano anche giardini, con immensi cedri del Libano, merli e grandi spazi vuoti. Ma quel latino, quelle declinazioni e quei verbi, com'erano diversi dalla cipria bianca e leggera che copriva le strade. Com'era infelice il latino e com'era felice la neve e fresca. La città sapeva odore di legname, quasi di sci, di quel licore tanto sognato e cercato nel vocabolario. Così pensava Franco quando vide, a pochi metri da un orinatoio, un uomo seduto per terra che arrancava con un bastone. Non c'era nessuno. Le strade erano vuote e bianche alle 8 del mattino, con qualche traccia serpentina di ruota di bicicletta. E l'uomo, visto il ragazzo, lo chiamò da una parte all'altra della strada. «Ciò! Ciò!» disse facendogli un gesto con la mano. Franco si avvicinò e riconobbe l'uomo con una certa paura. Era un mutilato della Prima Guerra Mondiale, uno con una gamba di legno che camminava con un bastone per la città imprecando ad alta voce. Aveva 3 nastrini all'occhiello, il largo distintivo dei mutilati e quello fascista. Era sempre molto elegante e curato, perché si diceva avesse un'ottima pensione, però girava solo ed era spesso ubriaco. Entrava nei bar o nelle osterie, agganciava al banco il suo bel bastone di malacca, ordinava e beveva e poi diceva che quelle consumazioni gli erano dovute come mutilato di guerra. L'ira era così immediata e violenta che molto raramente qualcuno rispondeva e quando rispondeva andava in mezzo ai guai. La sua figura era un po' tutta grigia, di un colore perlaceo per il vestito, gli occhi e un particolare pallore nel volto che anche quando minacciava e urlava non mutava mai. Come fosse morto e un meccanismo lo portasse a camminare e a vivere in quel modo scattante con la gamba dura che faceva da perno quando girava. «Canaglie! Imboscati!» diceva. «Voi camminate, eh? Voi avete le gambe! Io ne ho data una per voi, canaglie!» E così dicendo, batteva con il bastone sulla gamba facendola risuonare. Aveva un cappello di feltro grigio quasi a bombetta, con un largo nastro nero. Era quasi incredibile che si fermasse a chiedere soldi ai passanti quando non ne aveva, e vestito in modo così elegante proprio per questo impauriva e pochi rifiutavano. Egli prendeva il denaro senza ringraziare e se ne andava. Chi era? «Stai lontano, è pericoloso», aveva detto suo padre. «È sempre stato un violento. Forse è una spia. Era ardito e ha perduto una gamba in guerra. Adesso è più cattivo di prima». è solo? Non ha famiglia?» aveva domandato Franco. «Sta con una donna, ma non si vede mai. Lui la picchia con il bastone. È stato anche in galera per questo.» Tuttavia Franco, come attratto da qualche cosa di quel Pierrot cattivo, si avvicinò. L'uomo era pallido e come infarinato. Il cappello stava a qualche metro da lui ed egli tentava inutilmente di piantare il bastone da qualche parte per alzarsi. Ma la punta di gomma scivolava sul lieve strato di neve che era segnato di strisce e bestemmiava. Forse era ubriaco perché una chiazza di vomito era accanto a lui. Faceva molto freddo e il disco del sole bianco e gelato illuminava ogni cosa, ma non riscaldava e non proiettava nessuna ombra. L'uomo aveva labbra violacee come corrose, tagliuzzate agli angoli, e guardò Franco da sotto in su, attraverso le ciglia che parevano truccate di rimmel. «Ciò, tirami su!» ordinò l'uomo e tese la mano verso Franco, che si lasciò afferrare. Ma l'uomo pesava di più di quanto sembrasse, e quando Franco tentò di sollevarlo, la gamba di legno scivolò sulla neve di traverso come indipendente dall'altra. L'uomo bestemmiò e se la prese col ragazzo. «Fesso! Fesso di guerra! Tira su, fesso!» E parve a Franco di vedere un sorriso di disprezzo, di provocazione nella bocca violacea dell'uomo. Franco appoggiò la borsa di scuola per terra e si provò a tirare il braccio con tutte e due le mani, ma sempre la gamba di legno, come disarticolata, andava per conto suo, si divaricava addirittura all'indietro, e a Franco parve anche di udire uno scricchiolio, un rumore di legno e di cuoio. L'uomo, da pallido, diventò colore lilla. «Can!» disse, e borbottò altre cose con delle bollicine alla bocca. Parve però rassegnarsi subito. Si appoggiò al muro con la schiena e con la testa, come per assestarsi più comodamente, anche se la gamba guardava all'indietro. Franco stava per curvarsi ancora una volta su di lui per rialzarlo, ma l'uomo disse: «Aspetta, aspetta un momento!» Così dicendo, frugò nella tasca destra della giacca, era senza cappotto, tirò fuori un pacchetto di sigarette Turmac, lo aprì, ne scelse una e infilò il bocchino dorato tra le labbra violette, poi l'accese. «Ma tu sai cos'è la patria?» domandò l'uomo a Franco, come se fosse seduto comodamente su una seggiola in una casa e si apprestasse a fare conversazione. Poiché Franco non rispose, di nuovo l'uomo disse: «La patria, cos'è la patria?» Franco se lo domandò frettolosamente, ma come spesso gli accadeva a scuola per le domande fatte a bruciapelo, non seppe rispondere. Balbettò però: «La patria, la patria!» E gli venne subito in mente di dire, chissà per quale ragione: «È l'altopiano di Asiago.» L'uomo parve non udire, ma disse: «Can!» e poi batté con le nocche sulla gamba, che risuonò come un armadio nella strada vuota. «Questa qui è la patria! La gamba, fesso! La mia gamba data alla patria!» E riprese a fumare dal suo bocchino dorato. «Proviamo un'altra volta!» disse Franco e allungò le mani verso il braccio dell'uomo, che si lasciò afferrare come un fagotto. Franco vide in quel momento che l'uomo aveva una bellissima cravatta di raso con una perla. Il ragazzo aveva puntellato il piede di legno contro uno dei suoi e cominciò a tirare l'uomo, che pareva quasi non volersi alzare. Lentamente l'uomo fu in piedi e si appoggiò al bastone. Franco raccolse il cappello lì vicino e glielo porse. L'uomo lo calcò bene in testa, un po' di traverso, e tirò l'ala verso la fronte. Provò a fare due o tre passi appoggiato al bastone, la gamba scricchiolò. Poi disse con voce dolciastra: «Aiutami a pisciare!» e fece cenno all'orinatoio vicino. Franco non capì cosa intendesse. Poi l'uomo disse, sempre con la stessa voce, che aveva le dita intirizzite e non poteva sbottonarsi. Con una mano dalle dita lunghe e dure afferrò un braccio di Franco e, un po' appoggiandosi, un po' spingendolo, lo diresse verso l'orinatoio. Franco si lasciò condurre, poi si staccò dall'uomo e disse: «No!» E immediatamente l'uomo si appoggiò al muro, alzò il bastone e lo calò velocissimo contro il ragazzo. Franco spostò la testa e la bastonata lo colpì sulla spalla. «Can!» disse l'uomo. «Dire di no a uno che ha dato la gamba alla patria!» Franco raccolse la sua borsa di scuola e scappò via. Si guardò indietro e vide l'uomo che entrava da solo e meticolosamente nell'orinatoio. Il cielo si era